ben sintonizzati e ben sintonizzate a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sono le 15.02 e sta iniziando Tracce di Cinema. Fede, oggi bella... oggi è una gran bella puntata. Sì, sì, molto speciale. A me ha fatto un po' impressione prepararla, lo sai? Sì. Sono tutti morti. Tutti, eh? Cioè, dai registi, i compositori, gli sceneggiatori, un'intera generazione portata via. Dall'età anche, dall'età. Sarebbero pluricentenari. Però un segno forte l'hanno lasciato. Sì, l'hanno lasciato. Parliamo di grandissimi autori, non solo di grandissimi autori come, in quanto registi, ma anche di grandissimi autori e compositori di colonne sonore e, straordinarie, che sono rimaste proprio appena le sentirete le riconoscerete tutte, perché fanno proprio parte della memoria collettiva del cinema italiano e della storia della musica che ha fatto parte dei film, insomma, più importanti di un certo periodo, il periodo della famosissima commedia all'italiana. Esatto. Sì, sì. Allora, abbiamo realizzato una commistione perché c'è stato un incontro, sono stato al Palladium ad un concerto di un'orchestra jazz. No, al primo non c'eri, che poi era il secondo, di 4 appuntamenti. Tu sei venuta al terzo, dove siamo stati insieme, ci sarà un quarto questa domenica, che è quello conclusivo. Allora, in questo concerto un'orchestra di 17 elementi diretti da Mario Corvini, che tra poco sarà il nostro ospite qui in diretta al telefono, e loro hanno un approccio del jazz al cinema. E quindi il primo appuntamento, che è quello che cureremo oggi, era legato alla commedia all'italiana, il secondo è il jazz nel cinema, e non ricordo bene cinema americano, anche qualcosa cinema americano, i grandi jazzisti nel cinema, era quello dove siamo stati noi, e il quarto appuntamento sarà il jazz a Hollywood. Eh sì, Mario è proprio un grande, l'orchestra è fortissima, se non avete impegni andatelo a ascoltare, perché è veramente emozionante, sono tutti grandissimi musicisti, lui è un grande direttore. Tutti giovani. Sì, tutti giovanissimi. Tutti giovani, e questi sono brani inediti, perché li hanno realizzati dal vivo lì al Palladium. Noi abbiamo quelle registrazioni che oggi faremo sentire pubblicamente a chi non è stato presente in quell'occasione. E, in qualche caso anche migliori proprio delle originali, sì, ho trovato. Sì, beh, un pezzo orchestrato è un'altra cosa. Beh, insomma, comunque parleremo quindi di grandi film della commedia all'italiana, I soliti ignoti, Il sorpasso, Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico scomparso in Africa, Fumo di Londra, Sette poi, uomini d'oro, sì, l'audace colpo dei soliti ignoti, Anna, un film storico, un film quasi molto poco visto, insomma, dalle nuove generazioni, ma famosissimo all'epoca. Non so neanche se riusciremo a sentirli tutti, perché sono brani non brevi. E io comincerei subito, che dici? Sì, dai, andiamo. Io comincerei con i soliti ignoti, guarda. Sì. Aspetta, però prima volevo anche metterci una cosa che ci portasse all'atmosfera dei soliti ignoti. Eccoli qui. Se stavo fuori vor come un daccio cane. Tu stai a pensare all'affare ancora. Chissà che fesseria che era. Fesseria? L'altro mese qua dentro c'è stato un muratore del transito. Aveva dato una coltellata al cognato. Mi ha detto che poco tempo fa ha tirato su un muro di sfoglia, sai, uno di quei muri che se buono con un dito, tra una camera da pranzo e un locale del Monte di Pietà. E in questo locale che c'era? La Commare. Chi? La Commare, la cassaforte dei preziosi. E dimmi tu chi è più scarognato, te o io? Sai che bella consolazione. E come c'entravi nell'appartamento? Bussando, con permesso che devo fare un buco. Ma come sarebbe, come c'entravo? Dalla carbonaia, no? È un appartamento vuoto. È un'eredità indivisa, sai, roba d'impicci, roba da tribunali. Vuoto, hai capito? e io sto qui, inchiodato. E dove sta? A Via delle Madonne. Ah, lo sai che ti dico? Eh? È un bel colpo. Mi piace. Dove io? Esco. Mi hanno dato un anno con la condizionale, quindi te saluto e sono. Te mossi l'ammazzata brutto, vigliacco lunderino. Thank you. Questo era Gasman Blues dai Soliti Ignoti. Se non sbaglio era proprio il brano che dei titoli di testa, quello che introduceva il film. Sì, scritto da grandissimo Piero Umiliani, è diventato uno standard proprio jazzistico italiano, insomma, proprio che è scolpito nella memoria di tutti noi. Due cose su questo film: un film del 1958. Diretto da Mario Monicelli, una grande novità in tutti i sensi, nel senso che introduce proprio la commedia all'italiana, l'icona della commedia all'italiana, nasce così proprio questo genere e porta con sé delle grandissime novità, intanto sugli attori, che erano tutti attori drammatici, perché Gasman faceva teatro, ruoli drammatici oppure di cattivo, sì. E mentre Totò era relegato ai tempi alla macchietta, era molto poco amato dai critici. Alcuni attori erano proprio sconosciuti, tipo Tiberio Murgia, che fu proprio incontrato da Monicelli per strada, era un suo classico, era un suo classico. Insomma, mi ha raccontato una volta che passando davanti a un benzinaio mi indicò un uomo, insomma, questo giovanotto che lavorava, e mi disse lui mi ha fatto, lui lo devo chiamare, perché questo mi piace. lui. E in effetti poi dopo fece un film che si chiama Le Rose del Deserto. E gli piaceva prendere le persone per strada. E poi è stato il primo film di Claudia Cardinale, sapevi? Sì, primissimo film, era incinta all'epoca, pensa, mentre giravano, nascosero questa gravidanza, e sono stati fatti una serie di remake hollywoodiani famosissimi, Fede, sì. Crackers di Louis Malle, e poi è ispirato un altro omaggio, è stato fatto da Woody Allen in Criminali da strapazzo. Un altro proprio è proprio ispiratissimo a questo capolavoro, è Welcome to Collingwood del 2002, diretto dai fratelli Anthony e Gian Russo con George Clooney. E poi questo film non aveva questo titolo all'inizio, Monicelli non aveva pensato ai Soliti Ignoti, è stato poi cambiato in seguito dal produttore Franco Cristaldi, e Monicelli aveva pensato invece di chiamarlo La Madama, chissà perché. E beh, insomma, è uno dei film proprio, forse uno dei più famosi di Monicelli, è stato candidato mi pare anche agli Oscar ma non ha vinto, è certo una commedia, no? Come tutti i film di Mario Monicelli, ma come tutti i film di Mario Monicelli c'è una grande vena drammatica, no? Che lui fotografa non solo nei personaggi che sono tutti scarcagnati con questi costumi, no? Mi ricordo Capannelle come era vestito, no? Sempre da cavallerizzo, tutto strappato, la Roma che viene fotografata è molto drammatica, perché questa Roma del boom, che insomma che ritrae, insomma, una Roma che fa parte del boom economico di quegli anni, ma che ne è totalmente fuori, perché è una Roma molto popolare, molto povera, una periferia degradatissima e una grandissima povertà, e questi insomma sono i tratti più fortemente drammatici di questo film, che con il sorriso però racconta e fotografa un periodo molto molto molto povero e molto difficile per questo paese. Sono nelle mani di un pazzo. Hai avuto paura? Io? No, guida bene lei. Ah, oh, ma anche sei matto, mi dai ancora del lei. E dammi del tu, no? Ormai ci conosciamo. Va bene. Ah, grazie. Vanna più forte, spingo? al vivo New Talents Jazz Orchestra al Teatro Palladium qui a Roma, diretta da Mario Corsini. E per quanto riguarda questa volta le musiche del sorpasso reinterpretate da questa orchestra giovane di 17 elementi, e questa è l'occasione per avere con noi in diretta Marco Risi. Pronto Marco, ci sei? Ciao, sì, eccomi qua. È un piacere ritrovarti dopo un po' di tempo ed eccoci qui a parlare di un film, una delle tante tappe importanti della commedia all'italiana, Il Sorpasso. Eccoci qui, sì. Con delle grandi musiche, tra l'altro. Ah, beh, la musica era bellissima. Io, guarda, neanche quasi mi ricordavo, ma la musica era strana in quel film, perché non era una musica classica da commedia, era una musica jazz, appunto. Era Rizzi Ortolani che aveva fatto una colonna sonora abbastanza difficile, cioè non era un accompagnamento di quelli leggeri e basta, era una musica tostarella per una commedia on the road. Sì, è no? vero. Però ha creato un'atmosfera comunque in maniera inaspettata. Come no? Gli dà quella cosa già dall'inizio, quando vedevi i titoli con quella macchina che attraversava una Roma deserta, come non c'è più. Tu entravi subito in quell'atmosfera lì, capivi che forse la storia poteva andare a finire male. Ecco, con quella musica lì. È vero. È vero, Marco. Ciao Marco, come stai? Ciao, bene, Ottavia? Sì. Bella, come stai? Tutto a posto. Senti, insomma, Risi e Monicelli continuano. È vero. Ma è vera la leggenda che il finale doveva essere un lieto fine? E invece poi a seconda avevano fatto una scommessa sul tempo, no? Il produttore e Dino, Dino diceva che sarebbe stato bel tempo, invece il produttore diceva che pioveva, e a seconda di questa scommessa sarebbe stato deciso un finale piuttosto che un altro. La sai questa storia? È vera questa leggenda? Sì, la so. Io so che il giorno in cui dovevano girare il finale aveva piovuto, quindi siamo stati tutti fermi in albergo col produttore Mario Cicchigori che smaniava, perché dice: ma come, perdiamo tempo qui, io pago la gente che non fa niente, stanno tutti fermi. E poi dice: se domani piove ancora, basta, torniamo tutti a casa, ce ne andiamo, il film finisce bene con la macchina che va via, loro allegri, e finisce bene. E papà invece si è opposto, dice: no, ma come, no, non si può, dai, dobbiamo. Poi dice: scommettiamo che domani è bello, vediamo un po', se è brutto però ce ne andiamo. Invece per fortuna il giorno dopo non pioveva, ci fu un gran sole, hanno potuto quel finale, sul quel finale lì però De Sica disse: ma perché l'hai fatto morire? Senti, a proposito di Dino, oggi io di solito il giovedì mando un messaggio agli amici che ascoltano la radio e che ascoltano anche Tracce di Cinema, e ho proprio citato una frase di tuo padre che dice: c'è un'arte che si impara vivendo, è l'arte del non fare. Era molto pigro. Ma lui in realtà non ha fatto il medico come avrebbe dovuto, perché era laureato in medicina e si stava specializzando in psichiatria, perché non gli andava di svegliarsi tutte le mattine alle 7, perché era troppo presto. Anche se col cinema, però per qualche mese all'anno, certe volte ti dovevi svegliare veramente presto anche lì, però era un'altra storia. Lui amava tantissimo dormire, gli piaceva dormire. Una volta ha dormito 32 ore di fila, tornato dall'Argentina con delle piccole pause, alzava per andare in bagno, mangiava una cosa e si rimetteva a dormire, perché quando andava a dormire il pomeriggio, per esempio, diceva ai figli: ragazzi, fate piano perché papà va a lavorare. Si metteva lì, andava a letto, sognava, e quelli erano i suoi film, che erano molto meglio di quelli che faceva, diceva lui. Era pigro anche come Vittorio Gassman, che volle girare a Castiglioncello perché andava lì in vacanza e così poteva fare vacanza e lavorare senza stancarsi troppo, vero? Proverbiale anche la sua pigrizia. No? Questa non la sapevo, di Castiglioncello dove Gassman andava in vacanza. Però c'è una fotografia che ho visto lì del sorpasso mentre stavano girando il film, in cui c'è Monicelli, appunto, c'è tuo padre, c'è Brunetta, c'è un sacco di gente che stavano lì, c'erano i D'Amico, le cose, sulla spiaggia, Panelli, perché erano lì tutti in vacanza, che tra una pausa e l'altra delle riprese stavano lì a chiacchierare delle cose. Era un bel gruppetto, eh? Senti Marco, volevo chiederti anche il sorpasso nel complesso dell'opera di tuo padre, come lo vedi, come lo porresti in quel insomma. Ma io mi sa che il sorpasso lo metto al primo posto. Al primo posto, sì. Sì, sì, fra i suoi film mi sa che lo metto al primo. Se penso alla commedia all'italiana, credo che, a parte tanti film naturalmente di Mario Monicelli, di tanti, però se devo pensare a un film della commedia all'italiana, uno emblematico della commedia all'italiana, penso al Sorpasso. Per me la commedia all'italiana, anche se era nata prima, molto prima, anche con Domenica d'Agosto, per dire, però la commedia all'italiana nasce un po' lì. Quello è proprio è veramente l'emblema della commedia all'italiana. Siamo un po' in competizione, perché io ho appena detto che la commedia all'italiana nasce con i soliti ignoti. Nasce con i soliti ignoti, sì, certo, anche quello. Lo so, però lì, ma insomma, vabbè, due grandi film di questo. Però ecco, la prima, allora diciamo che è il primo con Gassman con la faccia sua, perché Gassman non lo aveva nessuno comico con la faccia sua, perché dicevano che era drammatico ed era antipatico. Infatti tuo padre, che lo prese per primo a fare la commedia, gli ha abbassato la fronte, gli ha cambiato il naso, gli orecchie, ha fatto un sacco di cose. Sì. Invece Gassman con la sua faccia ce l'ha avuta soltanto nel Sorpasso, la prima volta. Comunque, cioè, non dico niente di nuovo dicendo che il Sorpasso è uno dei film più celebri della storia del cinema, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Negli Stati Uniti, con il titolo The Easy Life, è diventato proprio un fenomeno di culto, tanto che Dennis Hopper, brava, che ha girato Easy Rider, si è proprio ispirato al Sorpasso per scrivere il suo. Allora adesso vi racconto un aneddoto che fa ridere, perché io una sera ho conosciuto Martin Scorsese a Roma, era venuto nel 1980 a casa di Christian De Sica, e a un certo punto, quando ha scoperto che io ero il figlio di Dino Risi, mi ha detto: ma lo sai che avevo un insegnante di cinema all'università, che era talmente fissato col Sorpasso che se l'era studiato così attentamente che aveva scoperto che il tragitto che faceva la macchina formava un punto interrogativo. Allora io sono andato naturalmente a mio padre il giorno dopo e gli ho detto: papà, ma lo sai che c'è un professore di cinema americano che ha scoperto che il percorso che fa la macchina forma un punto interrogativo? Lo sapete che cosa mi ha risposto mio padre? Oh, dice: finalmente qualcuno che se n'è accorto. Naturalmente era una battuta, no, io lo dico specifico. E mi dicono: ma veramente faceva un punto interrogativo? No, non lo faceva punto interrogativo. Assolutamente. La follia inventata da questo qui. E poi ha guadagnato un sacco di soldi, costò 300 milioni di lire e incassò in 3 anni più di 1 miliardo. Cioè, ti rendi conto per l'epoca? Cioè, roba da matti, È venduto al secondo giorno dall'uscita del film, aveva visto che il film non incassava perché la gente non andava, perché vedeva Gassman ed era appena uscito un film con Gassman antipatico, quindi dice: no, Gassman no. E poi dal terzo giorno è partito, ma Cecchi Gori si vendette tutta o parte, quasi tutta la quota della sua partecipazione al film. Che grande cazzata. Ha fatto una grande cazzata. Sì, vabbè, non è che è povero, insomma. Però no, ha fatto una grande cazzata. No, lui era ricco, poi ci ha pensato Vittorio a combinare. Vabbè, dai Marco, lascia perdere. Io lo amo Vittorio, ma che scherzi. Anch'io sono Vittorio. L'ultima cosa, secondo me, che ne voglio dire a chi non l'ha visto, credo che l'abbiano visto tutti, ma insomma forse qualche ragazzo giovane all'ascolto della radio magari non l'ha visto, è un grande film con una satira ferocissima, in cui proprio Risi fotografa proprio tutto il suo pensiero riguardo la sfiducia verso l'uomo italiano, la storia dell'Italia, è proprio una critica alle abitudini e alla mentalità. Sì, quello che penso e quello che dico di quel film è che non solo riesce a dare uno spaccato esatto di com'era l'Italia di quegli anni, perché non è soltanto del 1962, è proprio emblematico degli anni 60 quel film, ma riesce a raccontare anche come sarebbe diventata l'Italia. Già. In fondo Gassman poteva essere anche Berlusconi, ecco, quel Gassman lì poteva diventare un personaggio come Berlusconi. Tutto poi a partire da quel suono di clacson. Tutta la zona di Claxo, che fra l'altro era di dei nostri parenti, Dolcetta, erano proprietari di questa fabbrica che faceva Claxon vicino Padova, la Fiamme mi sembra che fosse, che fosse, e si sono inventati quel suono lì che da lì diventò famosissimo. Se io avessi i diritti d'autore sul clacson sarei ricco. Senti Marco, ma tu sai, dici anche qualcosa di te? Sei al lavoro su qualcosa che ci puoi dire qui in diretta? Sì, adesso sono in preparazione per una lunga serie per la televisione, per Rai 1, che si svolge all'Aquila un anno e mezzo dopo il terremoto. Quella che ci raccontavi un po' quest'estate, insomma. Sì, questo, insomma, il 13 febbraio si comincia a girare. Ah, perfetto. Bene, perfetto. Bene. Tra poco, ci siamo. Bocca al lupo, allora, buon lavoro Marco, grazie mille. Un bacione. Avremo modo di riparlarne sicuramente nella trasmissione di cinema. Bene, mi fa piacere. Ti abbraccio, grazie. E a presto Marco. A voi. Ciao Marco, grazie. Ciao. Ciao. Ciao Ottavia. Ciao. Thank you. Dall'audace colpo dei soliti ignoti, la colonna sonora reinterpretata dalla New Talents Jazz Orchestra diretta da Mario Corvini, e strada facendo ci siamo persi un po' di informazioni già rispetto al sorpasso, mia cara Ottavia, e poi hai via libera chiaramente anche su questo, l'audace colpo. Eh sì, nel ripercorrere questa è la storia del cinema italiano di questi anni, degli anni 70, un cinema caratterizzato dalla commedia all'italiana, dove con questo termine si vuole indicare proprio il carattere tipicamente italico della costruzione comica, sottesa alla trama e alle presenze di alcuni attori feticcio che già a partire dagli anni 60 avevano colonizzato il mondo della commedia, regalando al pubblico risate e interpretazioni memorabili. Non posso che essere d'accordo con questa definizione che ho beccato su internet. Per quanto riguarda le musiche del film Il Sorpasso, volevo ricordare che sono state scritte dal grandissimo Rizz Ortolani, il quale ha scritto oltre, Federico, 200 colonne sonore, tra le quali una lunga serie di western tedeschi, stranamente, e molti gialli italiani, e moltissime delle sue musiche sono state usate per film stranieri. Per esempio nel film Kill Bill volume 1 ci sono sue musiche, nel film Kill Bill volume 2 altre, Bastardi senza gloria del 2009 altre, Drive del 2011 e Django Unchained del 2012. È veramente un grande, ha vinto anche un Grammy per la canzone scritta per il film Mondocane, fu anche candidata agli Oscar. È veramente un grandissimo. Invece di questo film possiamo dire l'audace qualcosa colpo. Sì, mo me lo ritrovo, non so. Non so, che sono disordinata io. Eccolo, ha diretto da Nanni Loi, 1959, è il seguito naturalmente dei soliti ignoti, non bello come i soliti ignoti, ma insomma funzionò e ebbe anche un grosso successo commerciale. La colonna sonora è imperniata, è tutta jazz, è composta sempre da Piero Umiliani e interpretata da Chet Baker, pensa, quindi insomma una grande... insomma, una cosa abbastanza importante. Sette Uomini d'Oro, reinterpretata dalla New Talents Jazz Orchestra, diretta da Mario Corvini, che abbiamo al telefono. Mario, benvenuto. Buonasera a tutti, eccomi, salve. Vi allora, sto ascoltando, divertentissima la trasmissione. Beh, sì, poi veramente grande musica, complimenti a voi. Grazie. Mario, io partirei subito dal progetto, com'è nato, raccontaci un po' tutto. Guarda, il progetto nasce piuttosto da lontano. Il progetto New Talent Jazz Orchestra nasce nel 2012, dall'ottobre del 2012, quando ho deciso di costituire questo ensemble di giovani musicisti, proprio per dar loro la possibilità di crescere dentro un organico jazzistico, anche perché adesso purtroppo non se ne vedono molti in giro, insomma. E poi niente, sono stati subito bravissimi, quindi abbiamo deciso di dare un'attività concertistica. Poi mi sono avvalso della preziosa collaborazione di Maurizio Miotti, che saluto perché sicuramente ci sta ascoltando e con il quale abbiamo fatto tantissimi progetti insieme, in ultimo questo qui per l'Università di Roma 3, Jazz e Cinema, e quindi insomma l'excursus di tantissime attività musicali, registrazioni con la Parco della Musica Records. Adesso saremo l'orchestra residente al Parco della Musica, quindi avremo modo di implementare ancora di più i 1000 progetti che abbiamo in testa e che purtroppo ci vuole una struttura dentro cui poterli realizzare, quindi non è facile fare un'orchestra e poi suonarle, perché bisogna suonarli proprio in un posto specifico, insomma, sì, ecco. Sì. E niente, poi alla fine siamo arrivati fino a questo quarto e ultimo appuntamento di domenica prossima, questa domenica 15 gennaio alle ore 18 con al Teatro Palladium con Hollywood e i classici del jazz. Senti, come mai questa suddivisione in quattro parti? Ma noi ne avremmo volute fare 15 però il problema è che Luca Versano, professore che responsabile, che saluto anche lui, grazie a lui in effetti che siamo riusciti a fare queste musiche per questi film straordinari, e quindi niente, vabbè, dovevamo integrarci dentro una programmazione del Palladium insieme alle tante altre attività artistiche che hanno proposto appunto l'attività presso il teatro, perché il teatro è unicamente gestito dall'Università di Roma 3, quindi quest'anno hanno voluto dare un target concertistico non solamente in relazione ai programmi di studio di Roma 3, ma proprio a dare la possibilità al pubblico di andare ad un teatro vero e proprio, dove la programmazione è totale, ecco, musica, balletto e quant'altro, insomma. Avete individuato tre principali nuclei, che sono Hollywood chiaramente, la commedia all'italiana e il noir. Come mai questa sintonia, questa commistione del jazz con questi tre elementi? Ma avremmo anche potuto fare i grandi cartoons, ad esempio, sì, come Biancaneve, Cenerentola, da cui sono stati tratti poi alcuni standards però dovevamo selezionare una cosa piuttosto dovevamo selezionarli in maniera un po' che dividessero quasi completamente un concerto dall'altro, che è difficile, perché è difficile suddividere una categoria musicale all'interno del cinema, perché il cinema già di per sé è un contenitore unico, quindi potevamo benissimo tradurre in jazz pellicole che non erano jazz, ad esempio, avremmo potuto fare e probabilmente lo faremo, quindi questa è una cosa che abbiamo, anzi lo anticipo già in anteprima appunto, e per il prossimo anno sicuramente potremo fare una cosa del genere. Però diciamo, ci sembrava quello più classico cominciare con la commedia italiana, perché noi siamo italiani e la commedia italiana, questi film che abbiamo rappresentato il 9 ottobre sono alcuni, ma secondo me, vabbè dai, sono i più classici, insomma, quei film li so visti 200 volte l'uno, insomma, ecco, lo so personalmente. E quindi poi i grandi del jazz raccontati dal cinema, che abbiamo fatto il 13 novembre, il jazz e il cinema noir del 4 dicembre, e questo ultimo Hollywood dei classici del jazz, cioè Hollywood dei classici che sono diventati classici del jazz grazie a queste pellicole qui, insomma. Grandissimo Mario, sono Ottavia. Ottavia, come più... sta? Come stai? Guarda, emozionata a risentire la tua orchestra così in cuffia, forse un po' più emozionante ancora, no, più emozionante di vederla dal vivo, di sentirla dal vivo, no, però insomma, i pezzi sono forse più belli, stavamo commentando prima fuori onda con Federico, di quelli originali, quindi ma sono contentissimo, ti faccio i miei complimenti. Grazie, ma con Maurizio Miotti avevamo un po' di paranoia, perché la registrazione è impresa diretta da una camera, da una telecamera. È perfetta, io direi. E Maurizio mi ha mandato un WhatsApp prima, ha detto: oh, l'audio è perfetto. È perfetto, vabbè, infatti. Magari sì. Avete fatto qualche alchimia, secondo me. Ma solo Federico, ho solo alzato gli alti. Ho un po' migliorato gli alti, però sicuramente rispetto ai brani originali devo dire che un pezzo suonato da 17 elementi dà sicuramente un'organicità e amplia sicuramente poi le melodie, le sonorità di un pezzo, sì. Sicuramente viene qualcosa che lo valorizza ulteriormente e ne fa qualcosa di anche più grande. Ma sì, non solo, ma abbiamo anche l'ausilio di un grande schermo, perché il sì. Palladium è anche cinema, quindi, perché a parte che era un cinema d'essè anticamente nel quartiere di Garbatella, però ci avvaliamo di questo grande schermo che prende tutto il boccascena, che non è piccolo il boccascena del Palladium, sul quale noi proiettiamo dei screenshot che sarebbero le copertine originali, sì, dei film, e in più facciamo 2-3 brani musicali con il video, perciò noi musichiamo in tempo reale alcuni brani più importanti di alcune pellicole di questo palinsesto del programma musicale che facciamo, insomma. Un'altra cosa bellissima del tuo concerto. Senti Mario, per concludere, perché vogliamo mettere più pezzi possibili e quindi insomma la trasmissione sta per finire, ti volevo fare un'ultima domanda. Ti volevo chiedere, io non sono così tecnica e così brava come intervistatrice come Federico, quindi ti faccio una domanda sciocca, forse è un po' banale: qual è la tua traccia preferita che hai suonato tra tutte queste riguardanti il cinema, la commedia italiana? Vabbè, è troppo facile, scusa, non ti rispondo nemmeno. Tu no, lo conosci molto bene, la mia preferita è quella, la mia, è molto caro a te, la mia preferita è quella del film di Scola. No, dai, Gasman Blues. Il Gasman Blues. No, dai, vabbè, lo dico anche un po' perché, vabbè, sei te, però voglio dire, come non ricordare il grande Mario Monicelli, quindi, insomma, diciamo che sono tutte quante delle chicche questi brani, devo dire, anche per uno esempio You Never Told Me, Fumo di Londra, di Piero Piccioni, sì, vabbè, sì. Lì anche, Trovaioli, Anatra l'Arancia, Sette Uomini d'Oro, sì. Matrimonio all'italiana, fatto anche Trovaioli, insomma, sì, mamma mia, sì. Ha fatta parecchia di roba. Senti, una cosa che ho notato, Mario, rispetto alla musica, allora, nell'orchestra c'è una sola donna, rispetto alla musica, Chiara Orlando, esatto, che saluto anche lei. Rispetto ai vari generi musicali, nel jazz quello che ho notato è la presenza femminile, è veramente una presenza minoritaria. Come mai secondo te proprio nel jazz c'è questa difficoltà? Ma perché potremmo aprire un lo so. No, ma non per altro, perché il jazz è fondamentalmente una musica un po', beh, adesso tra virgolette, dissacrante, voglio dire, un po', sai, l'improvvisazione, anche non convenzionali in un certo senso. La donna forse per carattere, adesso non voglio dire cose maschilissime, anche perché non lo sono minimamente, anzi sono il contrario, però forse la donna si rappresenta meglio in ambiti un po' più tranquilli, classici, pop, così, jazz, improvvisazione. Per esempio una trombonista che improvvisa bene proprio alla grande non se ne vedono tanti. Nella storia c'è stata Mel Ballyston, qualcun altro, insomma, ma poca roba. Trombettiste anche, c'è una canadese molto brava, si chiama Ingrid Jensen se non sbaglio, che suona benissimo, suona veramente bene, però alla fine sono sarà un 10%. Tra l'altro, perché sono occultate forse, ma in giro ce ne sono veramente tantissime brave, ma veramente brave, tipo in Scandinavia una trombettista. Perché noi vogliamo mettere la musica. ecco. Allora fate Mario, fate bene. L'ultimissima. Sì, no, poi la dico... nostra domanda simbolo. Vai. Quella delle preferenze per le colonne sonore, una che ci suggerisci tu, Mario, che quale vorresti sentire a Tracce di Cinema? Una colonna sonora di un film. Di Tracce che vorrei sentire, sì. Ma io sono un po' innamorato del John Williams, devo dire, però non lo vorrei dire perché sono John Williams è talmente, okay. Vabbè, io sono cresciuto con commedia italiana per la mia storia, tra l'altro ho partecipato anche in alcune colonne sonore come musicista e non lo so, fate voi, per me adoro tutto. Nuovo Cinema Paradiso forse, insomma, okay. Merita quella è bella tosta, Senti Mario, ricordiamo l'appuntamento di domenica al Palladium a partire dalle ore 18 e jazz e Hollywood e i classici del jazz, okay. E vi aspetto tutti quanti perché faremo, tra l'altro ci sarà una chicca molto speciale che ho avuto il gradito piacere di voler fare assolutamente su un Smile di Charlie Chaplin, con alcune sequenze montate, video montate da Maurizio Miotti, che veramente è molto suggestivo, insomma. Vediamo, quindi di ascoltare. Ma tra l'altro venite, vi aspetto, Benissimo, dai. Ciao. Allora, un abbraccio e anche speriamo voi. A presto. Grazie, buona continuazione e buona serata. Grazie a tutti. Ciao, ci vediamo domenica. Ciao. Allora, ricordiamo chiudiamo con Anna Ottavia. Sì, chiudiamo con Anna, grande film di un regista che ai tempi era in bancarotta totale. L'Attuada, se non sbaglio, era pieno di debiti e poi divenne commissionato questo film che ebbe un grandissimo successo commerciale nel 1951. Fu il primo film italiano a essere girato in lingua inglese proprio per essere ben distribuito. Un esordiente sconosciuta Sophia Loren, accreditata nel film con il suo nome, col suo primo pseudonimo Sofia Lazzaro, e con una straordinaria Silvana Mangano che balla sul ritmo di questo pezzo che stiamo per ascoltare. Un saluto a tutti, ricordatevi di sottoscrivere alla radio, questa è la Radio Libera dal 1977, senza padroni, senza pubblicità, ha bisogno del vostro sostegno, non dimenticate di sottoscrivere, di venire alla radio a prendere una scarceranda, di venirci a trovare, noi siamo sempre qua, vi aspettiamo, e tutte le coordinate per sottoscrivere sono sul sito oppure il conto corrente postale che trovate anche sul sito. Ci salutiamo, a giovedì prossimo sempre dalle 15 alle 16.